Nome e cognome. Eleonora Poli. Cosa fai? Studio l'ultimo anno di università, antropologia. Su cosa fai la tesi? Sulla biblioteca Mirka Cabral. Bene, siamo sintonizzate allora. Ok. In realtà io a Mirka Cabral lo conosco da un po', perché è di casa, perché mia nonna e il cugino di mia nonna è Pedro Pires, l'ex presidente di Capo Verde, che ha creato il partito PGC d'indipendenza con Amílcar Cabral. Quindi io già questa cosa la sapevo. Quando sono arrivata a Bologna, dopo un anno, io ho conosciuto, sono venuta a conoscenza di questa biblioteca. E ho detto, no, vabbè, aspetta un attimo. E la mia idea era quella di fare una ricerca su un progetto, però sì, mi è venuto in mente, sono andata, perché scusa, ce la faccio qua, su questa biblioteca, perché è l'unica in Italia che ha su questo tema qua. Camaradas e compatriotas, neste momento em que começamos o novo ano de vida e de luta e o nosso combate pela independência do nosso povo africano. Il centro Amílcar Cabral è una biblioteca, un luogo di studio, di riflessione e di dialogo. Ci parla di Africa, America Latina, Asia, ma soprattutto ci parla di pratiche di relazioni internazionali. Questo posto ha compiuto 50 anni e in questo podcast vi raccontiamo pensieri e emozioni scintille che hanno dato origine, nella Bologna degli anni 70, a un centro studi intitolato al leader rivoluzionario africano Amílcar Cabral. Nel notiziario del Comune di Bologna del 1975 c'è una foto in cui si vedono tante persone attente, vicine, strette. Sono in una sala, la sala in via del Baraccano. Sono lì perché è il giorno dell'inaugurazione del Cabral. Finalmente, dopo mesi, il Cabral c'è. Tra di loro, giovani curiosi, compagni, futuri esperti e i politici. C'era il sindaco Renato Zangheri, l'assessore alla cultura Giorgio Ghezzi e il professore Salvatore Sechi, presidente del centro. E anche la professoressa Enrica Collotti Pischel, che introduceva il dibattito. Per la giornata si è scelto di parlare della storica vittoria del popolo vietnamita. Nella foto, però, non c'è il tavolo dei relatori, ma la platea che guarda, ascolta. Chissà, magari qualcuno era lì per caso, magari qualcuno aveva già capito che in città non si sarebbe più potuto fare a meno di un posto così. Quel pubblico si è moltiplicato, è cambiato, ha dato filo da torcere ed è stato di vitale supporto per la promozione di un senso critico. Quel pubblico sono lettrici, studiose, studenti, persone che ritrovano tra gli scaffali pezzi della loro vita, della propria militanza, dei propri altrove, persone che hanno trovato nel Cabral un appoggio ai propri progetti, persone che hanno dato tanto al Cabral. In quest'ultima puntata vogliamo lasciare spazio ai ricordi di chi ha un legame specifico con il Cabral. La prima voce che avete sentito è quella di Eleonora Poli, giovanissima studentessa, che all'inizio del 2025 scrive la sua tesi proprio sul centro Cabral. Di seguito daremo spazio ad altre voci che hanno intrecciato la loro vita con quella del centro, in particolare quelle di Vincenzo Russo, Corrado Tornimbeni e Filomeno Lopez. Arrivo a Bologna perché ero un lettore di cuore. cuore, quindi da un paesino della Calabria, e volevo diventare un giornalista. E poi però a 18 anni avevo letto Fernando Pessoa e quindi volevo studiare il portoghese, e poi l'incontro ovviamente con mio maestro, con il professor Roberto Vecchi, che insegna letteratura portoghese brasiliana e letteratura africana a Bologna, e quindi interessi che spaziano dalla letteratura, ovviamente la letteratura di lingua portoghese. Vado in Portogallo in Erasmus con prima dell'avvento di internet nel 96, è stato uno dei primi Erasmus di Roberto Vecchi, quando non c'era Google Maps, quando insomma io e Vecchi comunicavamo attraverso delle lettere, quindi una cosa piuttosto divertente. E lì ovviamente il primo interesse verso le letterature africane e soprattutto la storia del colonialismo portoghese, che 30 anni fa era una storia molto occultata, un po' dimenticata. Sicuramente in Portogallo era qualcosa che dentro, come dire, nell'immaginario collettivo nazionale era tenuta molto ai margini, no? Era una vergogna pubblica e familiare per a Bologna, un luogo dove potevi studiare tutto questo anche leggendo da un lato volumi, riviste in portoghese che erano introvabili in altre biblioteche della città, se non quelle di lingue, cioè, così, ma anche, come dire, in Italia, e quindi potevi accedere a queste fonti. E poi al Cabral tu avevi tutta una serie di documenti che erano relativi a quei decenni di cui ti interessavi, quindi anni 60, soprattutto sul versante italiano, quindi tutta quella cosa che poi un po' studiato, le traduzioni, i bollettini, i ciclostilati, i dossier, no, su guerra coloniale, sui movimenti di liberazione, eccetera eccetera. E quindi la biblioteca Cabral per me è stata proprio una specie di casa, no? in cui scoprire, come dire, un universo di cui avevo una piccola chiave d'accesso, che era quella della lingua, perché insomma poi ho fatto l'erasmo, ho vissuto tanti anni lì, e quindi comincio, no, a capire che Bologna ha avuto un ruolo importante in questa geografia della solidarietà internazionalista, terzomondista, anticolonialista. Uno dei protagonisti di quei movimenti di liberazione di cui abbiamo parlato prima, uno dei, appunto, dei più cosmopoliti, era un mozambicano, si chiamava Marcelino dos Santos. Marcelino dos Santos, nelle sue attività anticoloniali, che nascono prima in Europa, nelle università europee, a Lisbona, a Parigi, soprattutto Parigi, poi in Algeria, anche lui era nell'ambiente di una rivista franco-algerina, Presence Africaine, e chiamava Presenza Africana, il mondo che lo trova attorno a questa rivista, una finestra sul mondo. Ecco, per noi il Cabral allora era una finestra sul mondo. Noi venivamo quasi tutti, molti di noi venivano dagli insegnamenti, dai corsi di Anna Maria Gentili, che voi avete già conosciuto ampiamente. È stata la nostra maestra, e ci sentivamo non solo studenti e studentesse, ma una vera famiglia, e appunto, quindi uscivamo dalle lezioni e andavamo al Cabral. Al Cabral incontravamo altri e portavamo avanti una serie di attività. La rivista è stata una di queste, è stata poi, diciamo, il fiore all'occhiello, ma tante altre. Io mi ricordo, insieme ad esempio al collega Mario Zamponi ed altri, abbiamo fatto parte, abbiamo aperto il nostro nucleo bolognese locale della campagna internazionale contro le mine antipersona, e abbiamo vinto il Nobel per la pace. Cioè, io vi posso Non mi ricordo l'anno, ma il Nobel per la pace è stato dato alla campagna, quindi a tutti. Quindi noi formalmente in qualche modo possiamo dire di aver vinto il Nobel per la pace. Ed è, l'abbiamo aperto al Cabral. Guarda, noi stiamo celebrando 51 anni dell'indipendenza, centenario di Amilcar Cabral, ma dal punto di vista politico stiamo a stacca zero. Questo è ciò che ti posso dire, purtroppo. Meno male che stando anche in un periodo della, come dire, di centenario, quindi anche un periodo forte per domandarci, però a condizioni che impariamo a non molto indicare il dito contro l'altro, ma contro noi stessi. No? Purtroppo non, i figli che la mia generazione non siamo stati all'altezza di quello che sono stati i nostri padri. Noi siamo figli dei vari Cabrali, Senghori, i Ceccantelpiope, eccetera, ma la mia generazione no, non abbiamo ancora fatto nulla, quindi perciò secondo me l'unica battaglia è che quando scrivi questi piccoli testi almeno abbia l'umiltà di cercare un dialogo subito con i giovani, almeno che loro, sperando che i loro domani riescano a fare quello che la mia generazione non è riuscita a fare, perché ciascuno di noi ha guardato più se stesso, il proprio interesse che ha. Sì. Purtroppo sì, no? Ma le potenzialità ci sono, no? Ma abbiamo perso quella capacità dell'insieme. La lotta della liberazione aveva tre corollari: al di sopra di tutto il paese, secondo il popolo che lottava per il suo paese, e terzo il partito o movimento in quanto strumento che il popolo usa per lottare per il suo paese e per la sua gente. E a livello panafricano il paese voleva dire l'Africa. In questo senso noi abbiamo trovato anche tutta l'Africa di quel periodo voleva essere indipendente, no? E hanno lavorato per questo. Ora, poi Ceccantelpiope dice tocca ad ogni generazione di essere in grado di rilevare le sue sfide, no? Trovare una risposta per andare avanti o accettare di essere la generazione che non è stata all'altezza delle sue sfide. Quando guardo la situazione della Guinea-Bissau è vergognoso, sì, veramente vergognoso. Va di male in peggio, però non è il motivo per perdere la speranza, bisogna sempre combattere, ma credo che questo anche stia succedendo perché è venuto meno il livello culturale. Quando il livello culturale cala, la politica ne risente, perché la politica è prima di tutto un pensiero che viene cercato di essere trasformato in un progetto. Ma questo purtroppo è un problema globale, vedo che anche in Europa non c'è più un pensiero. L'Europa era grande quando, anche essendo nella sua atrocità eccetera, ma aveva un progetto, e su quel progetto gli altri, quelli che erano i nostri padri, sono riusciti ad entrare lì, studiarlo e proporre cose diverse, ma oggi non lo puoi fare perché un pensiero non c'è, quindi questo è il problema. D'un sacrifice pour l'enfer, d'un travail la terre. se parlasse di game, Aile, se t'andrasse di eme, Aile, se tu tutti male, Aile, se caresse di eme, Aile. Il percorso di 50 anni oltre i confini è arrivato alla conclusione. Abbiamo raccontato la storia di un'istituzione culturale come il Cabral di Bologna. Oggi, a 50 anni dalla sua fondazione e 52 dalla morte del rivoluzionario africano cui è intitolato, Amilcar Cabral per l'appunto, in questo 2024-25 segnato da conflitti globali, guerre e nuove domande. Nuove domande che ruotano intorno a queste parole. Sud globale, solidarietà, internazionalismo, terzomondismo, colonialismo, razzismo, indipendenza, decolonizzazione e cultura. Il nostro filo d'Arianna è stato la storia della fondazione del Centro Studi Cabral. Abbiamo riscoperto i protagonisti e le protagoniste, le relazioni politiche e culturali a livello locale e internazionale che hanno dato vita a questa storia che dura ancora oggi. Abbiamo scavato negli archivi della città e nella vita di Cabral. Per noi è stato un percorso di scoperta. Guardare tutto insieme non è stato facile, ma è la storia l'ago adatto a cucire i fili della complessità del passato. Fonte dopo fonte, pagina dopo pagina, con una buona dose di inquieta curiosità. La domanda che ha guidato la nostra ricerca è stata: perché c'è una biblioteca a Bologna dedicata ad un uomo africano? Abbiamo preso un filo, l'abbiamo tirato e la matassa che si è aperta era spessa e lunga. Siamo andate quindi negli anni 70, che già dire Bologna anni 70 ci apre un mondo a sé. Abbiamo interrogato le carte che parlano dell'amministrazione della città a guida PC, del vento internazionalista che soffiava nella sinistra, degli intenti e dei sogni di chi ha dato vita al Centro Cabral. Abbiamo ascoltato le storie di chi in quegli anni portava all'università gli studi sull'Asia e sull'Africa, di chi ha lavorato incessantemente prima in via del Baraccano, poi in via San Mamolo, relazionandosi con un'idea di cultura, di città e di mondo che dagli anni 70 a oggi è cambiata radicalmente. Cos'è l'internazionalismo oggi? Questa è una delle tante domande che ci ha accompagnato per 6 puntate ed è una domanda che resta aperta. Da quando abbiamo iniziato questo percorso, nel novembre del 2024, nessun teatro di guerra si è chiuso, anzi forse il mondo è solo peggiorato sulla spinta di politiche internazionali sempre più violente ed aggressive. Le trattative condotte a suon di bombe di Putin, che propone accordi mentre intensifica l'aggressione militare sull'Ucraina, l'economia globale appesa al filo di desideri di un apprendista stregone come Trump, il governo dello Stato di Israele che non smette di agire indisturbato e di mettere in ridicolo il diritto internazionale, gli accordi e la diplomazia in un'impunità totale mentre la popolazione di Gaza e della Cisgiordania muore sotto l'incubo della pulizia etnica. E nel vero silenzio del mondo e dei mass media, in Africa continuano ad esserci teatri di guerra infuocati come nel nord del Congo e nel Sudan. Anche la solidarietà è però sotto attacco. Nell'aprile del 2025 la presidenza statunitense ha pensato ad un piano di tagli ai finanziamenti all'università, accusandole di non aver fatto nulla per frenare l'antisemitismo, ovvero di non aver ostacolato le proteste in solidarietà con la Palestina. Gli Stati Uniti di Trump sono una punta estrema, ovvio, ma ci sono tendenze simili in atto anche in Europa. Qual è lo spazio reale per costruire delle forme di dialogo e di solidarietà con i movimenti internazionali? E in più, che spazio hanno le voci di dissenso e di opposizione? Forse piazze momentanee e indignazione social non sono sufficienti e tornano necessità vecchie di 50 anni. Cambiare il punto di vista, leggere storie scritte altrove, capovolgere le cartine, recuperare strumenti della conoscenza. Lo sappiamo, noi continuiamo a porre delle domande più che a dare delle risposte. In fondo, questo ci sembra uno dei compiti di chi fa storia. L'altro compito è quello di continuare ad incuriosirci, a impegnarci e a ricordarci che esiste uno spazio enorme che è quello della globalità, in cui noi siamo immerse, che lo vogliamo o no. Per cui, meglio conoscerlo, magari perdendosi fra gli scaffali del Cabral. The job of progressives and revolutionaries everywhere is to hasten the death of imperialism. 50 anni oltre i confini è una serie podcast realizzata da Radio Vallun per Biblioteca Amilcar Cabral, settore biblioteche e welfare culturale del Comune di Bologna. Nel 2024 il centro compie 50 anni e celebriamo il centenario della nascita di Amilcar Cabral. Potete riascoltare le puntate su tutte le piattaforme e sui siti bibliotecaamilcarcabral.it e su radiovallun.info. Fonti e bibliografia in sinossi. Le le le.